Capitolo 7. In mezzo minuto attraversarono il Pump Yard e arrivarono al passaggio ad arco di fronte all'incrocio di Union Passage. Ma qui dovettero fermarsi. Chiunque conosca Bath può ricordare la difficoltà di attraversare in questo punto. In effetti è una strada così impertinente che porta, per sua disgrazia, alle strade principali che vanno in direzione di Londra e di Oxford e alla locanda principale della città, e perciò non passa giorno che gruppi di signore, sia pure impegnati in attività importanti come la ricerca di pasticcini, di cappellini o magari, come nel caso presente, di giovanotti, non vengano trattenute su di un lato o sull'altro dal passaggio di carrozze, cavalli o carri. Questa calamità era già stata notata e lamentata almeno 3 volte al giorno da Isabella da quando era arrivata a Bath. E lei era ora destinata a notarla e a lamentarla ancora una volta, poiché proprio quando arrivarono di fronte all'incrocio di Union Passage e in vista dei due signori che procedevano tra la folla lungo il marciapiede di quell'interessante viale, le due ragazze non poterono attraversare per via di un calesse che un cocchiere dall'aria esperta guidava sul selciato sconnesso con tutta la veemenza adatta a mettere in pericolo la sua vita, quella del suo compagno e del suo cavallo. Oh, questi odiosi calessi, disse Isabella alzando gli occhi al cielo. Quanto li detesto! Ma quest'odio, pur così giusto, fu di breve durata, poiché guardò di nuovo ed esclamò: Oh, ma è meraviglioso! Sono il signor Morland e mio fratello! Buon Dio! È James! Gridò Catherine nello stesso momento. Non appena incontrarono lo sguardo dei due giovani, il cavallo fu subito fermato con violenza che quasi lo fece stramazzare. Dopodiché il cameriere saltò a cassetta e i due gentiluomini scesero lasciando l'equipaggio alle sue cure. Catherine, per la quale questo incontro era completamente inatteso, accolse il fratello con il piacere più vivo e lui, che aveva un carattere molto amabile e le era sinceramente affezionato, le provò ampiamente di nutrire da parte sua la medesima gioia. O meglio, avrebbe avuto agio di farlo se gli occhi brillanti della signorina Thorpe non avessero chiesto incessantemente la sua attenzione. Egli le presentò prontamente i propri omaggi con un misto di gioia e imbarazzo che avrebbe potuto informare Catherine se lei fosse stata più esperta dell'evoluzione dei sentimenti degli altri e meno sinceramente assorbita dai propri, del fatto che il fratello trovava la sua amica tanto carina quanto lei stessa avrebbe potuto giudicarla. Presto John Thorpe, che nel frattempo era stato occupato a impartire ordini riguardo ai cavalli, si unì a loro e da lui Catherine fu subito compensata con gli omaggi a lei dovuti. Egli infatti toccò appena distrattamente la mano di Isabella, ma a lei dedicò una completa goffa riverenza e un mezzo inchino. Era un giovanotto ben piantato, di media altezza e con un viso comune e un fisico privo di grazia. Sembrava temesse di essere troppo bello se non indossava gli abiti di uno stalliere e troppo simile a un vero signore se non si comportava in modo disinvolto quando era il caso di essere galante e non era sfacciato quando sarebbe bastato essere disinvolto. Quanto pensate che ci abbiamo impiegato da Tetbury, signorina Morland? Oh, non conosco la distanza. Il fratello le disse che erano 23 miglia. 23, gridò Thorpe. 25, quant'è vero che questo è un pollice. Morland protestò, invocò l'autorità di guide stradali, padroni di locande e pietre miliari, ma l'amico le rifiutò in blocco. Egli aveva un criterio più sicuro per misurare la distanza. So che sono 25, disse per il tempo che abbiamo impiegato a percorrerle. Ora è l'una e mezzo. Abbiamo lasciato il cortile della locanda di Tetbury quando l'orologio della città suonava le 11 e io sfido qualsiasi uomo in Inghilterra a far correre il mio cavallo ben bardato a meno di 10 miglia all'ora. Quindi devono essere esattamente 25 miglia. Hai dimenticato un'ora, disse Morland. Erano solo le 10 quando abbiamo lasciato Tetbury. Le 10? Erano le 11 sul mio onore. Ho contato ogni colpo. Questo vostro fratello, signorina Morland, vorrebbe convincermi che sono uscito di senno. Ma guardate il mio cavallo. Avete mai visto in vita vostra un animale fatto per la velocità come questo? Il servitore era appena salito sulla carrozza e si stava allontanando. Un puro sangue come questo. Vi sembra animale da impiegare 3 ore e mezzo per percorrere solo 23 miglia? Guardatela questa bestia e ditemi se vi sembra possibile. Oh, senza dubbio pare proprio molto accaldato. Accaldato? Non si è spostato di un pelo finché non siamo arrivati alla chiesa di Walcott. Ma guardategli il collo, guardate i lombi, osservate come si muove. Ah, quel cavallo non può assolutamente andare a meno di 10 miglia all'ora. Legategli le gambe e lui andrà ancora avanti. Che ne pensate del mio calesse, signorina Morland? Non c'è male, vero? Bella carrozzeria, costruita in città. Non è neppure un mese che ce l'ho. L'hanno costruito per uno di Christchurch, che era un mio amico. Proprio un buon diavolo. Ci ha corso per alcune settimane finché credo gli sia tornato utile disfarsene. Si dava il caso che io fossi in cerca di una cosetta del genere proprio in quel momento, benché fossi anche decisissimo a optare per un calesse a due cavalli. Comunque lo incontro per caso lo scorso trimestre a Magdalen Bridge, mentre entra a Oxford. Ah, Thorpe, mi fa. Non è che ti servirebbe una cosetta come questa? È di prim'ordine, ma ne sono proprio stufo. Oh, accidenti, gli faccio io. Sono quello che fa per te, quanto vuoi. E quanto credete che volesse, signorina Molland? Oh, sono sicura che non riuscirei minimamente a indovinare. Ah, la struttura è quella di un calesse a due cavalli, vedete? Sedile, portabagagli, fodero per la sciabola, parafango, lampade, modanature d'argento, tutto completo, vedete? La parte in ferro è buona come fosse nuova o anche migliore. Mi chiese 50 guinee. Conclusi l'affare immediatamente, tirai fuori il denaro e mi presi la carrozza. E io vi assicuro, disse Catherine, di saperne così poco di queste cose da non poter giudicare se il prezzo è conveniente o caro. Né l'uno né l'altro, oserei dire che potevo averlo per meno, ma detesto mercanteggiare. Il povero Freeman aveva bisogno di contanti. Oh, è stato molto generoso da parte vostra, disse Catherine compiaciuta. Oh, accidenti, quando ho i mezzi per fare una gentilezza a un amico, odio essere meschino. A questo punto venne chiesto alle signorine dove fossero dirette e quindi si decise che i signori le avrebbero accompagnate agli Edgar Buildings e poi sarebbero andati a porgere i propri rispetti alla signora Thorpe. James e Isabella camminavano avanti e quest'ultima era così soddisfatta, così intenta a fare del suo meglio per assicurare una piacevole passeggiata a chi poteva vantare a proprio credito sia di essere l'amico del fratello che il fratello dell'amica. E i suoi sentimenti erano così puri e privi di civetteria che, benché raggiungessero e sorpassassero a Milsom Street i due insolenti giovanotti, lei era tanto lungi dal cercare di attirare la loro attenzione che si girò a guardarli solo 3 volte. Naturalmente John Thorpe rimase con Catherine e dopo alcuni minuti di silenzio riprese la conversazione sul suo calesse. A ogni modo, signorina Morland, c'è chi lo considererebbe a buon mercato. Tanto è vero che avrei potuto venderlo per 10 guinee in più il giorno dopo. Jackson di Oriel voleva darmene 60 sull'unghia. C'era anche Morland quella volta. Ah, sì, disse Morland che per caso aveva sentito, ma dimentichi che nell'offerta era compreso il cavallo. Il mio cavallo? Oh, accidenti, non lo venderei per 100 guinee. Vi piacciono le carrozze aperte, signorina Morland? Oh, sì, molto. Non ho mai avuto occasione di andarci, ma mi piacciono moltissimo. Oh, mi fa piacere, vi porterò ogni giorno a fare un giro sulla mia. Oh, grazie, disse Catherine, un po' imbarazzata per il dubbio che potesse essere sconveniente accettare un'offerta del genere. Domani vi porterò su a Lansdowne Hill. Grazie, ma il vostro cavallo non avrà bisogno di riposo? Riposo? Ah, ha fatto solo 23 miglia oggi, sciocchezze. Non c'è niente che rovini i cavalli come il riposo. Niente li indebolisce di più. No, no, il mio farà esercizio in media 4 ore al giorno finché sono qui. Davvero? Disse Catherine con la massima serietà. Ma sarebbero 40 miglia al giorno? 40, fossero anche 50, tanto meglio. Bene, vi porterò su a Lansdowne domani, ricordate, è un impegno. Oh, sarà meraviglioso! Gridò Isabella girandosi. Mia carissima Catherine, ti invidio davvero, però ho paura, fratellino, che non avrai posto per una terza persona. Un terzo? No, no, non sono venuta a Bath per portare a spasso le mie sorelle. Sarebbe una bella trovata, parola mia. È Morland che deve prendersi cura di te. Questo portò a uno scambio di cortesie fra gli altri due, ma Catherine Non ne sentì particolari né la conclusione. La conversazione del suo compagno si ridusse a questo punto dal tono animato che fino allora aveva conservato a niente più che alcuni categorici giudizi di elogio o di disprezzo riguardo il viso di ogni donna che incontravano. E Catherine, dopo aver ascoltato e assentito il più a lungo possibile, con tutta la cortesia e la deferenza della giovane mente femminile, timorosa di azzardare una propria opinione contraria a quella di un uomo così sicuro di sé, specialmente nel campo della bellezza del suo stesso sesso, osò infine cambiare argomento con una domanda che esprimeva quello che era da tempo il suo pensiero predominante, cioè: avete mai letto Udolpho, signor Thorpe? Udolpho? Oddio, certo che no, non leggo mai i romanzi, ho altro da fare io. Catherine, umiliata e confusa, stava per scusarsi per la sua domanda, ma lui glielo impedì dicendo: Ah, tutti quei romanzi sono pieni di assurdità e di sciocchezze, dai tempi di Tom Jones. Lo disse in modo sbagliato. Non ne è uscito uno decente, a parte il Monaco. L'ho detto l'altro giorno. Ma per quanto riguarda tutti gli altri, sono le cose più stupide del mondo. Credo che Udolpho non potrebbe non piacervi se lo leggeste. È molto interessante. Ah, vi dico di no. Piuttosto leggo Anne Radcliffe. I suoi romanzi sono abbastanza divertenti. Vale la pena di leggerli. In quelli almeno c'è un po' di spirito e di verosimiglianza. Udolpho l'ha scritto Anne Radcliffe, disse Catherine un po' esitante per paura di mortificarlo. Ma no, davvero? Ah, certo, ora ricordo. Sì, è proprio così. Stavo pensando a quell'altro stupido libro, scritto da quella donna sulla quale si è fatto tanto chiasso, quella che ha sposato l'emigrante francese. Suppongo intendiate Camilla. Sì, è quello, delle sciocchezze così assurde. Un vecchio che gioca con l'altalena. Ho preso il primo volume una volta, l'ho sfogliato, ma mi sono accorto subito che non andava. In realtà sapevo che razza di robaccia fosse prima di vederlo. Appena mi hanno detto che lei aveva sposato un emigrante, mi sono sentito certo che non sarei mai riuscito a leggerlo. Io non l'ho letto. Oh, vi assicuro che non vi siete persa niente. Contiene le peggiori assurdità che si possano immaginare. Non c'è nient'altro che un vecchio che gioca con l'altalena e impara il latino. Sul mio onore non c'è altro. Con questa critica, la cui esattezza andò sfortunatamente a vuoto con la povera Catherine, arrivarono al portone della casa dove abitava la signora Thorpe e i sentimenti dell'acuto e imparziale lettore di Camilla lasciarono il posto ai sentimenti del figlio devoto e affezionato, non appena incontrarono la signora Thorpe che li aveva visti dalla finestra del corridoio al piano superiore. Mamma, come stai? Disse stringendole calorosamente la mano. Dove hai pescato quel cappellino ridicolo? Sembra una vecchia strega. Oh, c'è anche il signor Morland. Siamo venuti a trovarti per qualche giorno, quindi devi cercarci un paio di buoni letti da qualche parte qui vicino. Queste parole sembrarono soddisfare i più ardenti desideri del cuore materno, poiché lei le accolse con il più grande affetto, lietissima e piena di gioia. Egli concesse quindi alle due sorelle minori un'uguale porzione di tenerezza fraterna, dato che chiese ad ognuna come stesse, e osservò che tutte e due gli sembravano proprio brutte. Questi modi non piacquero a Catherine, ma era l'amico di James, il fratello di Isabella, e il suo giudizio fu ulteriormente sviato da Isabella, che le assicurò, quando si appartarono per vedere il cappellino nuovo, che John la trovava la ragazza più affascinante del mondo, e da John stesso, il quale, prima che si separassero, la invitò a ballare con lui quella sera. Se avessi avuto qualche anno in più o fosse stata più vanitosa, questi attacchi non sarebbero forse serviti a molto. Ma quando alla gioventù si unisce la poca fiducia in sé, è necessario un raro, incrollabile buonsenso per resistere alla seduzione di essere detta la ragazza più affascinante del mondo e di trovarsi impegnata così presto da un cavaliere. E la conseguenza fu che quando i fratelli Morland, dopo essere rimasti un'oretta con i Thorpe, si diressero insieme dal signor Allen, e James, non appena la porta si fu chiusa dietro di loro, disse: Bene, Catherine, ti piace il mio amico Thorpe? Invece di rispondere come probabilmente avrebbe fatto se non ci fossero state di mezzo l'amicizia e la lusinga, non mi piace affatto, replicò immediatamente: E mi piace moltissimo, sembra molto simpatico. Oh, è l'uomo più generoso del mondo, forse un po' chiacchierone, ma Credo che questo torni a suo favore con il tuo sesso e ti piace il resto della famiglia? Oh, tanto, tanto, Isabella in particolare. Sono molto felice di sentirti dire così. È proprio il tipo di ragazza di cui vorrei vederti amica. Ha un tale buon senso ed è così spontanea e dolce. Ho sempre desiderato che la conoscessi. Anche lei sembra molto affezionata a te. Ha detto di te le cose più lusinghiere e se ti loda una ragazza come la signorina Thorpe, Catherine. Le prese la mano con affetto. Puoi esserne orgogliosa? E lo sono, replicò la sorella. Davvero, le sono tanto affezionata e sono felicissima di vedere che piace anche a te. Non me ne avevi quasi parlato quando mi scrivesti dopo la tua visita a casa loro. Oh, perché pensavo di vederti presto di persona. Spero che staremo insieme moltissimo mentre tu ti trovi a Bath. È una ragazza così dolce. E che intelligenza superiore! Tutta la sua famiglia l'adora. È evidente che è la preferita di tutti. E quanto deve essere ammirata in un posto come questo, non è vero? Oh, sì, moltissimo, immagino. Il signor Allen dice che è la ragazza più carina di Bath. E ci credo. E non conosco nessun uomo che sia miglior giudice della bellezza del signor Allen. Non c'è bisogno che ti chieda se sei felice qui, mia cara Catherine, con una compagna e amica come Isabella Thorpe. Sarebbe impossibile sentirsi altrimenti. Certo, gli Allen sono molto gentili con te, vero? Oh, sì, gentilissimi. Non sono mai stata così felice. E ora che ci sei tu, tutto sarà ancora più meraviglioso. Come sei stato buono a venire così lontano soltanto per vedere me. James accettò questo tributo di gratitudine e placò la sua coscienza per averlo accettato, dicendo con perfetta sincerità: Cara Catherine, sai che ti voglio molto bene. Venne quindi il turno di domande e risposte riguardanti fratelli e sorelle, il lavoro di alcuni, la crescita degli altri e altre faccende di famiglia. E i due continuarono così, con un'unica breve digressione da parte di James in lode della signorina Thorpe. Finché giunsero a Pulteney Street, dove egli fu accolto con grande gentilezza dal signore e dalla signora Allen, fu invitato a cena dal primo e gli fu ingiunto dalla seconda di indovinare il prezzo e valutare i meriti di una nuova mantellina con manicotto. Un appuntamento preso in precedenza agli Edgar's Buildings gli impedì di accettare l'invito e lo obbligò a lasciarli in fretta, non appena ebbe soddisfatto le richieste della signora Allen. Fissata con esattezza l'ora in cui i due gruppi si sarebbero visti nella Octagon Room, Catherine poté quindi abbandonarsi al lusso di soddisfare la sua eccitata, inquieta e terrorizzata immaginazione sulle pagine di Udolpho, insensibile a ogni preoccupazione terrena riguardante gli abiti o la cena, incapace di placare i timori della signora Allen per il ritardo di una sarta da lei attesa. È in grado di concedersi solo un minuto su 60, perfino per riflettere sulla propria felicità, poiché era già impegnata per la serata.